verso il voto. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24 e benvenuti al punto politico della giornata, dibattito dominato dalla vicenda l'Italia. Per il segretario del Partito Democratico Veltroni la compagnia di bandiera non può fallire e occorre gradualità nei tagli dei voli a Malpensa, mentre il leader del Popolo della Libertà Berlusconi si dice molto preoccupato. Vincenzo Miglietta. Forte dei 10 punti di vantaggio, a suo dire, sul Partito Democratico, Silvio Berlusconi guarda quelli che saranno i problemi che si troverà ad affrontare una volta tornato a Palazzo Chigi. Tra questi, dice il Cavaliere, vi sono Alitalia e Malpensa. Il futuro della compagnia aerea entra intanto prepotentemente nella campagna elettorale del Popolo della Libertà. Fini fa sua la posizione espressa dal leghista Castelli e dice: siamo contro il piano di Air France. E demenziale aggiunge come il governo sta portando avanti la vicenda. Altro tema caro a Berlusconi, quello del voto utile, così l'ex premier al TG4. Ora, di fatto, le uniche due forze politiche che possono vincere ottenendo la maggioranza relativa dei voti siamo noi, il Popolo della Libertà nel centrodestra, o il partito di Veltroni e di Prodi nella sinistra. Perciò, se un elettore del centrodestra vuole impedire la vittoria di Veltroni e della sinistra, l'unica via efficace che ha è votare il Popolo della Libertà. Siamo in vantaggio sempre di 10 punti, conferma Berlusconi, che annuncia la par condicio è tra le prime leggi che aboliremo. Il Cavaliere rivolge poi un invito ai suoi elettori: vigilate contro i brogli. A Veltroni dice: mi sembra che i giochi di artificio siano finiti e penso che gli italiani, che lui ritiene così creduloni, non siano tali da cadere nei suoi tentativi da illusionista. Contro il leader del Partito Democratico anche Fini, che a Porta a Porta punta il dito sul tema dei costi della politica lanciato proprio da Veltroni. Chi è quel pensionato di 52 anni che percepisce 5.216 euro netti ogni mese di pensione? Si chiama Walter Veltroni. E io credo che gli italiani questo lo debbano sapere. La proposta di Veltroni sulla riduzione dei costi della politica è demagogica, aggiunge sempre dal PDL Rotondi. E dal PDL al PD, con Veltroni che continua il suo tour elettorale in giro per il Nord Italia. Alitalia non deve fallire, dice il candidato premier, perché ci sono migliaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Quanto a Malpensa, dobbiamo trovare la strada, dice Veltroni, per fare in modo che diventi l'altro grande hub italiano. Un paese può avere due hub, perché è un paese lungo, perché è un paese che ha da una parte più business e dall'altro più turismo. Allora si possono portare sull'hub del nord voli per compagnie aeree che vogliano venire, ce ne sono tante, a lavorare in Italia. Per fare questo probabilmente ci vorrà un po' di gradualità nel processo di dismissione dei voli oggi previsti su Malpensa. E Veltroni, come dicevamo, torna ancora sulla proposta di tagliare gli stipendi dei parlamentari, perché spiega la politica deve dare un segno di sobrietà. Siamo in una situazione economica difficile, dice il segretario del PD, che commenta anche la crisi che sta investendo gli Stati Uniti, una crisi che, dice, ha precise responsabilità. La responsabilità di questa spaventosa crisi economica che conoscono gli Stati Uniti è di chi l'ha governata per 8 anni, senza avere quello spirito che ha caratterizzato le amministrazioni democratiche nei loro momenti migliori e che è lo spirito che noi stessi proponiamo: armonizzare la crescita economica con la lotta e il contrasto di ogni forma di povertà, di diseguaglianza. E infine la polemica con Fini, che lo accusa di percepire una pensione parlamentare di 5.216 euro netti. L'onorevole Fini ha perso una buona occasione per stare zitto, perché grazie a queste risorse, invece di, diciamo, di usarle, ho cercato di fare delle cose che facessero del bene al prossimo, perché la penso così, sono fatto così. Anche negli schieramenti alternativi al PD e al PDL tiene banco la vicenda all'Italia. La sinistra arcobaleno dice no al taglio dell'occupazione, guai a lasciare mano libera a Air France, il candidato premier Fausto Bertinotti. Io credo che non si possa accettare una soluzione che taglia migliaia e migliaia di posti di lavoro. Lavoratrici e lavoratori dell'Italia sono una risorsa per il futuro strategico dell'azienda. Bisogna ripensarci. Ma dalla sinistra arcobaleno arriva anche un duro affondo a Veltroni sul tema dei costi della politica. Demagogica, populista e tardiva la definiscono, perché dicono i parlamentari del PD si opposero all'approvazione di una proposta di legge in merito. Attacchi anche dal leader dell'Unione di Centro, Casini. La denuncia di Veltroni è ridicola, perché noi abbiamo presentato assieme alla Lega un emendamento per ridurre ti compensi dei parlamentari. Qualche mese fa e i parlamentari candidati da Veltroni e riconfermati da Veltroni hanno votato contro al Senato. Ma di che cosa stiamo parlando, amici? Stiamo parlando di una presa in giro colossale degli elettori italiani. Verso il voto termina qui un saluto ad Alessandra Schepisi.